Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. Che età consentire il telefonino ai figli, secondo me, è uno dei grandi temi di quest'epoca, altro che legge elettorale. Cosa vogliono dire i baffi in un uomo? Una distinzione, un tentativo di distinzione che un po' tutti facciamo, no? È vero, ma io non, se me li tolgo non mi riconosco più. Giorgia Meloni al telefono, buongiorno. Quando quei bambini dice, sai, comprami questo, dice, vabbè, compralo con i tuoi soldi, allora vedi, comincia a farsi conti e certe volte ci rinuncia. Ma fantastico, sì, sono taccagni poi. Dio si crede senza doverlo vedere. Mi hai già declassato a tuo cultore. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Meloni, senta, io le faccio una domanda da cattivo, se sbaglio del tutto. Se è troppo cattivo, la ritratta? No, cioè, no, è chiaro questo. Cioè. No, le droghe, eccetera, eccetera. E poi cantavamo per tutta l'estate il ritornello proprio della canzone di J-Ax e Fedez con l'inno alle droghe leggere. Certo. Maria Salvador. Quando mi insultano vuol dire che... insomma, che proprio così male non sto facendo, no? Al giornale voglio dire solamente che mi infastidisce molto questo fatto che quando si parla di una donna, ancorché di una donna che fa politica da 25 anni, ancorché di una donna che ha dimostrato di aver raggiunto i suoi obiettivi con il suo lavoro e non per il favore di qualcuno, la si debba definire pollastrella. Popolo dei già svegli, buongiorno. Quante cose in questo fine settimana. La partitona pazzesca, il derby di Milano con la tripletta di Cardi che è ancora nei nostri occhi. Poche ore fa è il voto in Austria che decide ancora una volta dove batte il vento, e il vento batte verso destra. E poi la festa di compleanno piena di malinconia e di addii del Partito Democratico. Ma noi siamo qui insieme a una commentatrice leggiadra e acida, Aurora Lussana, buongiorno. Buongiorno a te Luca, e un caro saluto agli amici di Radio 24, salutiamoli. Brava. Allora, con te dobbiamo ripercorrere quello che sta accadendo in queste ore, il fritto misto del giorno. Sapete? La voce di Walter Veltroni alla festa qual dei compleanni. Qual è la notizia che un elettore di sinistra aspetta con più desiderio? Un giorno, anche solo 24 ore, senza una scissione o un litigio sanguinoso, senza gli insopportabili personalismi che dividono e fanno essere più deboli noi e più forti gli altri. E se c'era Veltroni, poteva non parlare Berlusconi? Io vado con Gheddafi e con i suoi architetti a vedere i centri di accoglienza su cui avevo ottenuto che ci fossero i caschi blu dell'ONU a garantire le condizioni umanitarie. Vedo i bagni, mi ricordo ancora il numero, 32 per ciascuno, guardo dentro i bagni e non c'è il bidet. Allora dico, ma non c'è il bidet, bisogna metterlo. Gheddafi mi guarda e fa, cos'è il bidet? Basta guardi i suoi architetti e dici, cos'è il bidet? Così allora dobbiamo preoccuparci, dare in questo spazio come vaso uguale. Idee ce li metto io, perché avrò l'orgoglio di aver insegnato a questi scopatori di africani che esistono anche preliminari. Aurora, queste rivelazioni sul bidet ti hanno turbato, esaltato, commosso? Preliminari che non so, da una perdita di tempo, questi preliminari. Incontrare preliminari in genere. Sì, ma il preliminare non è il bidet, cioè ora voglio dire, la battuta era parossistica, ma basta preliminari, Telese, parliamo delle cose che ci interessano, tipo quest'area che è arrivata qua da nord all'Austria. Oh. Ah, vabbè, quello ne parliamo fra un attimo. Però senti che la Lombardia ha vinto la sfida per le regionarie nel Lazio. Ci aspetta una battaglia importantissima che è assolutamente alla nostra portata, ma è una sfida molto impegnativa ed è la sfida per riprenderci la nostra regione. E poi mi piacerebbe che fossero qui accanto a noi anche i nostri sindaci, perché noi siamo cresciuti tantissimo, governiamo tante amministrazioni, c'è cioè Virginia, Fabio, Carlo, di scena. Tieniti forte, Aurora, perché è tornato Don Vicenza, è tornato De Luca. Allora, di questo luglio 19 molto importante, insomma, le universiadi, ma non solo. Questa è una cosa bella, come erano belle le stelle di Leopardi, diciamo, vaghe stelle dell'Orsa, io non credei a tornare ancora Peruso a contemplare. Grande, grande poesia. Poi ci sono diventate stelle di latte. Il Rosatellum, Grillo, ai fotoreporter, ai reporter che lo seguono, si è proprio arrabbiato, si è come un giornale letto il giorno dopo. Parlo di anacronismo, siete anacronisti, ci siete come un giornale letto il giorno dopo, quindi non parlo di cronaca, scusate però. E la barzelletta del Cavaliere, quella sul colloquio fra Berlusconi in cielo con il Padre Eterno. Io lo dico perché interessa più a voi che a me. Io ormai sono vicino al cielo, diciamo. Beh, ma in cielo, ragazzi, avete sentito cosa è successo quando è salito Berlusconi? Che subito Padre Eterno l'ha voluto chiamare da lui. È entrato nell'ufficio del Padre Eterno. I colloqui col Padre Eterno di solito durano 3 minuti perché lui sa già cos'hai in mente tu e ti dice soltanto le cose che vuole dirti lui. Invece passano 3 minuti, niente, 10 minuti, niente, mezz'ora, niente, tutte le anime sante, come mai, angeli, arcangeli, beati, tutti si affollano intorno lì, sai, siccome sono puro spirito, ce ne stanno milioni intorno, finalmente dopo 2 ore si apre la porta, esce il Padre Eterno che tiene una mano sulla spalla di Berlusconi e sentono che gli dice queste parole: Silvio, la tua idea di trasformare il paradiso in una società per azioni e di quotarla in borsa mi è piaciuta moltissimo. Però il Padre Eterno fa solo il vicepresidente in questa società e vabbè, e sentite, questa è la tripletta di carte. Icardi contro Donnarumma, parte Icardi, destro! Destro! E dai festeggiamenti ai nerazzurri a quelli degli austriaci. Quindi l'Austria vira a destra, il trionfo nelle elezioni legislative dei popolari di Sebastian Kurz, l'OVP ha ottenuto il 31,7% dei consensi, ha guadagnato quasi l'8% rispetto alle elezioni del 2013. Adesso, Aurora, puoi dar libero sfogo al tuo entusiasmo. Ma Luca, ma hai messo lì una tavola, ma hai imbandito una colazione? Qua me ne raccontate di ogni, tipo polenta, uncia e cinghiale, si parte proprio alla grande sto lunedì. Tanta roba. Come hai trovato Berlusconi? Allora, ho letto stamattina che Salvini al Corriere, anche lui è un po' irritato, né, da quella battuta lì sui bidet giù agli africani, perché, non lo so, giustamente se davvero a marzo si va a votare, se insomma si ipotizza questo 4 marzo si va a votare con questa legge qua elettorale che è Rosatellum, voglio dire, pensiamo al programma di governo. Oggi insomma Salvini, ripeto, dice non, in questi giorni non ho neanche tempo di incontrare il Berlusca perché c'è il referendum qua in Lombardia e in Veneto, sai che noi si vota domenica 22 ottobre, quindi in Lombardia votiamo anche col tablet, è il primo voto digitale. Ma non facciamo tutta sta propaganda, anche tecnoprogramma propaganda, si vota col tablet, sembra tablet, siamo moderni. La nostra contemporaneità qua lombarda lo so che ti inquieta, però è così. Noi quindi siamo con l'aratro, col trattore, siamo al sud. Bello l'aratro, mi piace, immagine maschia, bravo. E quindi ti dico, insomma, il Berlusca che va in matrimoni giù a Napoli, che fa le battute sui bidet dell'Africa. Pensiamo alla coalizione, pensiamo al programma di governo, che Rosatellum, vabbè, a parte il latinorum, che non, io sai, ho questa visione molto manzoniana, quindi il latinorum è fatto per ingannare sempre noi poveri cristiani, però insomma più o meno la legge potrebbe anche funzionare, finalmente ritorniamo ai collegi che devono dire, poi se sono sposata con uno che oltre a essere interista, quindi ieri sera mi ha rovinato la serata con l'Inter, che io sono dell'Atalanta, e qua si parla già di collegi elettorali perché siamo avanti, ripeto, ha ragione Salvini stamattina sul Corrierone, pensiamo alla coalizione, pensiamo alla legge elettorale solo per i collegi e poi andiamo verso il modello austriaco che è stata una roba lì straordinaria. Allora, un caso che mi sta turbando, non c'è un audio perché è senza parole ma è frutto di una indefessa attività twitteromane, beh, quello di Asia Argento. Adesso sono arrivate nuove confessioni, reggiti forte. Un regista e attore mi molestò nella sua roulotte a 16 anni e poi a 26 un regista americano mi drogò con la droga dello stupro per farmi perdere le difese inibitorie e mi violentò. No, povera, no, nel senso, no, mi spiace, no, poi capisco magari anche perché linguava col cane, no, nel senso, povera, deve una vita molto complicata, mi spiace, massima solidarietà, non pensavo, no, nel senso, che lei ha un po' esibito questa vita un po' borderline, sempre, quasi come un vessillo artistico, no, nel senso, sai, l'artista che fa una vita un po' tormentata, voglio dire, eccola, magari le facevano, mi spiace questa. Però c'è un grande dibattito in Italia perché alcuni giornali, segnatamente quelli di destra, hanno detto, beh, ma Asia Argento non può parlare dopo 20 anni, lei ha detto che questo è un paese osceno in cui si sta dalla parte degli stupratori, tu che sei donna, che impressione hai? Sì, so che ho figli acquerelati, no, nel senso, denunciare uno stupro 20 anni, una querela in un minuto, no, nel senso, ognuno poi ha le sue valutazioni, e ripeto, un'esistenza difficile, massima solidarietà, e no, nel senso, si è mica fidanzata poi con quello lì, che l'ha violenta, non lo so, è una vicenda molto, anche quella lì tormentata un po' come una sua esistenza, non lo so, che poi era mica anche uno di sinistra, quello lì, stuprano anche a sinistra, non era mica. Vabbè, ma adesso non fare del sarcasmo, si sa che era uno dei produttori più importanti di Hollywood, che è stato un finanziatore delle campagne democratiche, Hillary Clinton ha restituito i soldi che ha avuto da lei, però non trasformarlo in una cosa politica, no, non fare propaganda su Asia Argento. No, pensavo che gli Obamiani, tutta quella gente, fossero, no, sai, non fossero come con quelli di destra che hanno questi impulsi primordiali. Di destra sono gli... sai, noi abbiamo il cervello primordiale che domina sulla parte razionale, non lo so. Però, ripeto, umanamente mi dispiace sta ragazza, però si vede che è un po' una ragazza sofferente. Però il povero Weinstein è stato espulso all'Academy. All'Academy, sì. Prima guardavo le foto delle accusatrici, ragazzi, che fanciulle in fiore, c'è anche chi ha detto no, noi qui siamo del partito di Mira Sorvino, che era una grande star, aveva recitato con Woody Allen, quando quello ha provato a mettere le mani addosso ha detto fatti dedicati all'autoerotismo, ragazzo, magari non avrà fatto dei film, capito? Sì, o comunque questo sì, è il fatto fatto fare con la Mira, ma certo, sì, sì. Quindi chi rifiuta, la vita credo che sia così per magari una barista piuttosto che per una che vive a Sunset Boulevard e fa la bella vita, non lo so, si vede che c'è proprio un caratteraccio, a me non ci trovano neanche a molestarmi, non lo so, però no, totalmente, eccola, no, ripeto, umanamente per questa ragazza, per questa Asia Argento mi dispiace, perché la vedo proprio sofferente, si vede nei film, dalle robe che ha fatto nella vita, che è una donna un po' sofferente, disturbata, anche perché magari con queste ferite emotive, povera, ha vissuto male. Per quel che riguarda Hollywood, secondo me c'è tantissima omertà. Allora, ci fermiamo per le strade e torniamo subito dopo con Aurora Lussana, ancora qui. Ciao! Facciamo un avvertimento sindacale, è immorale alzarsi a quest'ora. Mattino. I già svegli. Sono già sveglio, perché si dice che chi inizia presto finisce presto, ma fra una cosa e l'altra finisco sempre ugualmente tardi. L'Umarel Pappalardo, ma chi è? Ma fatelo tornare a guardare i cantieri che fa meno danni. Ciao Luca, sono sempre la signora dei gatti. È vero, io amo gli animali, però non li umanizzo. La gente che mette lo smalto sulle unghie fa prendere per i fondelli noi animalisti, perché diventiamo ridicoli. Ciao, saluto a Giannino che lo amo perché ama i gatti. Buongiorno dottor Telese, desidero parlare a proposito dello scandalo del produttore americano. Essendo anziana non mi atteggio a puritana, però quello che mi stupisce è che queste donne dopo 20 anni si atteggino a vittime. Sto sveglio perché mi vado ad alzarmi presto, non è questo il punto. Apprendo che praticamente le vittime sono le attrici, le donne che sono state insidiate e non hanno saputo resistere. Ma allora quelle ragazze, quelle donne che hanno detto di no e che hanno rifiutato incarichi, posti di lavoro, tanto la commessa quanto la grande attrice, allora quelle non hanno meriti alcuni? Ciao Luca, io ho 88 anni, ieri ho fatto l'anniversario dei 60 anni del mio voto alla sinistra, ma non voterò più la sinistra. Grazie Luca, ti voglio bene. E allora, grande carrellata di testimonianze, di voce, l'affresco dell'Italia, grazie. Grazie per questo racconto che fate. Ricordate ogni giorno 02 30 22 44 92 la segreteria telefonica per i messaggi che devono restare scolpiti nella pietra. Aurora, sei lì, tu perché ti svegli e quando normalmente, senza costrizioni o vincoli? Mi sveglio ogni mattina all'alba da sempre, o all'aurora, no, all'aurora, perché l'aurora viene prima dell'alba, prima che sorge il sole, quindi vedi, nel mio nome c'era un destino, quindi all'aurora ci si sveglia qua a casa mia, e poi con la bimba per forza di cose che mi si sveglia. Ma così presto, davvero? La bimba è padana, cioè padana, sì, è mezza bergamasca, mezza comarca. Madonna, ma ogni due minuti devi fare lo spot della Lega. Ciao, sono Aurora, forza Lega, votate per la Lega, svegliatevi presto per votare Lega. È la mia terra, lo sai. Sì, sì, lo legame, sappiamo. Questo legame fortissimo. Comunque, qua, allora, devo dire qualcosa dei 10 anni del PD. Emozionata sentendo. Diciamo una cosa, che ieri da avversario hai sentito Veltroni e hai pianto. No, sabato. No, quello che veniva in giro qua in Lombardia col pullman, ma te lo ricordo. Un po' è un candidato romano qua, ma vabbè. No, allora, cioè, ma perché come deve girare? Con cosa deve girare in Padania? Se no, con l'auto elettrica? Con che deve girare? Allora, no, a parte che mi hai messo di tanta di quella roba, ti ho detto, allora, c'era la Lombardi che ha abbracciato la Raggi. E vabbè, ma questo, freddo, per la cronaca. Che è una roba. Si odiano, Si odiano. No, che poi se l'abbraccio fra due donne, non per fare robe lesbo chic, però è bello, a me piace, no, proprio bello. E lì è l'abbraccio più freddo che abbia mai visto, una tristezza sul palco, ho fatto finta di farle fare la pace, vabbè. Poi mi hai detto i 10 anni di Del PD, ultimi 10 anni, e ne hanno fatti. Ti facciamo sentire però un altro frammento di Veltroni, così ti commuovi, no? Ma dimmi cosa hai provato? C'hai un po' una prosa veltroniana? No, guarda, no, Veltroni è buonista, io sono in tutt'altre collocazioni, però ammetto che era l'unico che poteva fare un discorso, senti. Sapete, lo sapete benissimo, qual è la notizia che un elettore di sinistra aspetta con più desiderio? Un giorno, anche solo 24 ore, senza una scissione o un litigio sanguinoso. Vedi che c'è anche l'autocritica, c'è il tono, c'è la capacità, no? Eppure voi avete fatto le vostre scissioni. Non così laceranti, nel senso abbiamo avuto... Vallo a chiedere a Bossi, Vallo a chiedere a Bossi. Ma Bossi è... Straturato. Era una festa della Lega l'altra sera, c'era lì Umberto Bossi, Non è che domenica va a votare anche lui per l'autonomia della Lombardia e autonomia, no? Insomma, vuol dire solo Lombardia. Quindi dici... Non è che in Veneto. ma posso votare solo in Lombardia purtroppo. Quindi no, sono sì, no, no, è stato bravino, è sul palco il Veltrone a ricordare questi 10 anni dove ne hanno fatte di ogni. 10 anni che governano praticamente, hanno cambiato quanti segretari? 5, no? 5. Ah, io ero rimasta a 4, chi è il quinto? Allora aspetta. Il primo segretario del PD appunto è stato Veltroni, poi è venuto Fassino, poi è venuto Epifani, poi Bersani e Renzi, 5. Oddio. Vabbè, devo buttarla in calcio d'angolo, allora sentiamo Bossi. Salvini non è un cattivo ragazzo. Forse è meglio di quelli che ci sono adesso, anche se è molto legato a loro. È meglio che vinca io, che cambi, che rifaccio una lega di battaglia molto forte. Se avesse vinto Bossi, come sarebbe la Lega oggi? Ma l'Umberto vince sempre, perché l'Umberto... Ma questa, sei diventata veltroniana, la battuta buonista. Ma no, vabbè, padre fondatore ha sfidato il Valhalla, è tornato con una noda. No, io sì, sono un po' bossiana, però è Salvini adesso che deve combattere. È lui a cui guardiamo. E il litigio con la Meloni come l'hai visto? Allora, la Meloni secondo me non poteva far altro che tenere un po' buoni i suoi da Roma in giù, che magari hanno visto questo referendum di Lombardia e Veneto come un tentativo un po' di strappare al centro, però adesso, allora, i quesiti sono chiari e sono all'interno comunque del perimetro, della cornice costituzionale, quindi una richiesta del federalismo differenziato previsto dal 116, va bene, non facciamo diritto costituzionale. Sai che cosa? In Lombardia i suoi, dalla Beccalossi in giù, sì, i suoi della Meloni votano tutti. Sì, facciamo sto referendum, quindi sono, non so, magari alla Garbatella, non so che sto referendum. No, battutaccia etnica, no. 6:55, strada in diretta GR, ci sentiamo fra poco. Ciao Aurora, grazie. Babbaleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.